TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'omicidio di Porcia, dopo la confessione resa ieri da Luciano Bedin, storico collaboratore del noto imprenditore 87enne, ucciso a colpi di spranga. Il movente del delitto sarebbe di natura economica, ma le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Arrestati dai carabinieri di Latisana, un 25enne e un 43enne residenti a Napoli, ritenuti responsabili della truffa avvenuta nel maggio scorso nella bassa friulana ai danni di una 72enne, cui erano stati sottratti monili in oro per un valore di oltre 15.000 euro. A Trieste si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con la relazione del neo procuratore regionale Alberto Mingarelli. Proseguono a Udine i lavori di Dialoghi Aperti, l'evento che raccoglie in questi giorni nel capoluogo friulano esperti da tutto il mondo con al centro dei dibattiti anche i futuri sviluppi e le prospettive del recente conflitto in Medio Oriente. Prima giornata per lo Student Day dell'Università di Udine, iniziativa di orientamento che comprende 64 presentazioni di corsi di studio alla scoperta anche della scuola superiore. Le 12:31 minuti in questo istante, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Beerz e Maria Spezia che condurranno questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di venerdì 6 marzo. Ancora in primo piano dunque l'omicidio di Porcia con la svolta avvenuta ieri con la confessione resa da Luciano Bedin, lo storico collaboratore del noto imprenditore 87enne ucciso a colpi di spranga. Il movente del delitto sarebbe di natura economica, le indagini proseguono però per chiarire tutti gli aspetti ancora poco chiari della vicenda. Nei prossimi giorni sarà svolta l'autopsia. La procura di Pordenone trasmetterà in giornata la richiesta di convalida del fermo di Loriano Bedin, l'ex collaboratore di Mario Ruoso, al momento unico indagato per il suo omicidio, aggravato dalla premeditazione e dalla minorata difesa. Il GIP avrà quindi 48 ore di tempo per fissare l'udienza. Il 67enne, reo confesso, è al momento in custodia nel carcere di Pordenone. Anche l'autopsia sarà svolta nei prossimi giorni, anche se la dinamica dell'assassinio appare già chiara agli inquirenti. Questa mattina sono tornati in borghese davanti al condominio in cui il cavaliere Ruoso è stato ucciso con una barra di ferro di 71 centimetri. Chiuso per lutto il garage Venezia, l'attività di cui Ruoso era rimasto proprietario ancorché senza dipendenti diretti. Anche per il rogo del luglio 2025 in cui prese fuoco un'auto assieme a dei documenti è indagato lo stesso Bedin. Nonostante l'incendio però l'uomo si sarebbe visto negli ultimi 6 mesi alcune volte in concessionaria. I rapporti sarebbero peggiorati negli ultimi 3 mesi per una vicenda legata alla vendita di Telepordenone in liquidazione giudiziale, ma il movente ancora al vaglio di procura e polizia di Stato. Materiale, mobilio e frequenze che Bedin avrebbe venduto ad insaputa del cavaliere utilizzando una firma digitale che gli sarebbe stata rubata, ma è ancora tutto da dimostrare. Confermato invece un dettaglio da parte della curatrice fallimentare. Lo stesso giorno dell'omicidio Bedin si è recato alle 3 del pomeriggio nello studio della curatrice per discutere della vicenda. Si è soffermato lì un'oretta. A telecamere spente la commercialista ci ha detto che durante la riunione Bedin appariva tranquillo e si è comportato come se nulla fosse successo. Pordenone, Lillo Montaltomonella, TGR, Friuli Venezia Giulia. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella serata di ieri con un'autopompa e un'autobotte in via Cavallotti per spegnere un incendio scoppiato nella cucina di un ristorante. Sul posto clienti ed esercenti si trovavano già all'esterno del locale che era del tutto invaso dal fumo. Spento il rogo, le cui cause sono in accertamento, si è passati alla messa in sicurezza dei locali. Per i rilievi è intervenuta la polizia di Stato. Ancora cronaca, arrestati dai carabinieri di Latisana, un 25enne e un 43enne residenti a Napoli, ritenuti responsabili della truffa avvenuta nel maggio scorso nella bassa friulana ai danni di una 72enne cui erano stati sottratti monili in oro per un valore di oltre 15.000 euro. I due avevano usato l'ormai noto stratagemma della falsa telefonata, presentandosi come militari dell'arma con la richiesta di raccogliere tutti gli oggetti preziosi di cui la donna era in possesso. Le indagini dei veri carabinieri, portate avanti anche attraverso testimonianze e analisi delle immagini recuperate da telecamere di sorveglianza, hanno consentito poi di identificare e quindi di arrestare i due autori della truffa. Nel corso di un'attività di controllo, la Guardia di Finanza di Pordenone ha individuato 8 lavoratori in nero e 24 dipendenti irregolari, privi di tutele retributive, previdenziali e assistenziali. Per 8 operatori economici ispezionati è stata inflitta una maxi sanzione. La proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di personale senza contratto in misura superiore al 10% di quello regolarmente assunto. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno poi permesso di riscontrare come i responsabili delle imprese controllate in alcuni casi avessero omesso il versamento delle ritenute fiscali per le retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti per un ammontare superiore a 10.000 euro. Questa mattina a Trieste si è tenuta la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia con la relazione del neo procuratore regionale Alberto Mingarelli. La Corte dei Conti tornerebbe agli anni 90, un pachiderma distaccato dai problemi del paese e le sue funzioni sarebbero ridimensionate. È severo il giudizio del procuratore regionale Alberto Mingarelli sull'ultima legge di riforma della Corte dei Conti. In particolare, la delega che dovrà essere attuata porterebbe a un notevole ridimensionamento organizzativo delle procure regionali, che si vedranno trasformate in mere propaggini della Procura Generale a seguito di alcune disposizioni che andrebbero a incidere sulla loro autonomia. Altro problema, la disposta limitazione del danno risarcibile in caso di colpa grave degli amministratori pubblici, che prosegue un percorso avviato con la previsione dello scudo erariale, e poi l'accorpamento deciso delle funzioni di controllo e di quelle giurisdizionali, a cui Mingarelli si dichiara contrario. Sulle stesse posizioni la presidente Emanuela Spesel e l'attuale presidente della sezione di controllo Tiziana Spedicato. Per quanto riguarda le denunce arrivate all'organo, sono state 843 nell'ultimo anno, 367 le istruttorie aperte, in linea con gli anni precedenti. Recuperati ai bilanci pubblici più di 3 milioni di euro. L'organico a disposizione della Corte, è stato sottolineato, resta ancora insufficiente. Trieste, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Proseguono a Udine i lavori di Dialoghi Aperti, evento che raccoglie esperti da tutto il mondo al centro dei dibattiti e anche i futuri sviluppi e le prospettive del recente conflitto in Medio Oriente. Una guerra giusta quella che gli Stati Uniti e Israele hanno iniziato contro l'Iran, a dirlo l'ex premier britannica Liz Truss, ospite della rassegna Open Dialogues di Udine. Se l'Iran ottenesse l'arma nucleare sarebbe un problema enorme per la stabilità della regione, ma anche per la stabilità dell'Europa. Abbiamo già in posti come la Gran Bretagna gruppi terroristici sponsorizzati dall'Iran attivi, dice. Di qui la critica all'attuale primo ministro del Regno Unito Keir Starmer, che in un primo momento aveva negato l'utilizzo di basi britanniche per l'attacco contro la Repubblica Islamica, salvo poi concederle per contrastare la risposta iraniana. A proposito del rapporto con gli Stati Uniti, a Truss abbiamo chiesto se Donald Trump non sia stato troppo duro nel modo in cui ha trattato gli storici alleati europei negli ultimi 12 mesi. Penso che gli americani abbiano detto all'Europa alcune verità, ovvero che abbiamo speso non abbastanza per la difesa, dice Truss, e che le politiche verdi hanno portato alla deindustrializzazione. Questo è un grosso problema in Gran Bretagna, ovviamente. La gente non piace sentire la verità, ma deve sentirla, aggiunge Truss. L'economia del Regno Unito non sembra aver beneficiato dalla Brexit a 11 anni dal referendum. Per Truss i problemi economici sono dovuti a una burocrazia britannica che ha sostituito quella dell'Unione Europea. Quindi alla fine non era colpa di Bruxelles, chiediamo. No, ma Bruxelles non è né la risposta né la domanda. Gran parte del problema è dovuto a ciò che sta accadendo in Gran Bretagna, risponde. Nel secondo e ultimo giorno di Open Dialogue si discute anche delle capacità di difesa sviluppate dall'Ucraina e di America Latina, del suo rapporto commerciale con l'Europa e delle volontà egemoni degli Stati Uniti di Trump sull'intero continente. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La scrittrice storica Anna Foa è intervenuta ieri a Trieste per presentare il suo ultimo libro su Israele. Nella sua opera ha un giudizio molto duro sull'involuzione del sionismo e sulle conseguenze del suprematismo ebraico appoggiato dal governo. Il suicidio di Israele, perché questo titolo? Israele isolata, Israele considerata in tutto il mondo come uno stato canaglia, Israele che ammazza 72.000 palestinesi a Gaza, Israele che è apertamente razzista, lei come lo chiamerebbe se non suicidio? cosa c'è rimasto del mondo, ma degli stesso primo sionismo, ma con le sue difficoltà e le sue contraddizioni, ma poi del mondo ebraico. Io credo che il suicidio sia un termine adatto a spiegare quello che è successo negli ultimi anni, ma forse decenni, in Israele. Secondo lei è un percorso irreversibile? Io spero proprio di no, non so giudicarlo, ogni giorno tutto peggiora, con la guerra di oggi è ancora ulteriormente peggiorato, non so, speriamo che non lo sia, speriamo che sia ancora possibile rinnovare Israele e fare di Israele uno Stato normale con un atteggiamento di pace verso gli altri abitanti di quel territorio, legittimi come gli israeliani, i palestinesi. Andrea Ravasini, TGR Friuli Venezia Giulia. Il giornalista e scrittore Antonio Caprarica inaugurerà la rassegna e i colloqui dell'Abbazia presentando il suo libro Il bullo, come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, appuntamento all'Abbazia di Rosazzo alle 18. Tra le pagine un'analisi del più controverso presidente degli Stati Uniti, di cui a Caprarica abbiamo chiesto una sintesi. Io ho scritto questo libro perché quello che ha fatto Donald Trump in tutto l'arco della sua esistenza, non solo della sua attività politica, è stato di cancellare ciò che avevamo concordato di chiamare realtà. E allora ho scritto questo libro per ristabilire il concetto di realtà e di verità, per dimostrare, fatti alla mano, che cosa ha davvero combinato Donald Trump. Il sottotitolo del libro è Come Donald Trump ha distrutto l'Occidente, e naturalmente il riferimento del bullo è precisamente al modo in cui sta conducendo gli affari internazionali e interni. La diplomazia di Trump è una replica, purtroppo nel XXI secolo, quindi con tutta la pericolosità connessa agli strumenti tecnologici del XXI secolo, una replica di quella che nell'Ottocento si chiamava The Gumbo Diplomacy, la diplomazia delle cannoniere. Utilizza la forza e la violenza nei confronti di quelli che gli appaiono più deboli, si guarda bene dal colpire coloro che possono invece reagire azzannando, tanto per fare un paragone basta pensare alla Nord Corea, che certamente non è uno stato meno tirannico e meno canaglia di quanto sia l'Iran degli Ayatollah, ma che si guarda bene dal colpire, perché naturalmente lì c'è la bomba atomica. La diplomazia di Trump è questo, è quella della doppia B, come la definisco nel mio libro, cioè del bullo, del bullismo e del business, degli affari, perché l'altra faccia del bullo Trump è l'utilizzo in modo spudorato della Casa Bianca per accrescere la sua ricchezza, quella dei suoi sodali e quella della sua famiglia. Ecco, abbiamo di fronte a noi un palazzinaro, 6 volte bancarottiere, come racconto nel mio libro, che ha deciso di utilizzare la carica pubblica per arricchirsi e che nel contempo sta usandola per ridisegnare il mondo, per soddisfare la sua mania di potenza e il suo narcisismo. E dopo questa ampia pagina dedicata ad argomenti di natura internazionale, torniamo ai fatti della nostra regione sul mondo del lavoro, per esempio con 2 ore di sciopero che sono state indette per oggi a fine turno alla Marelli Automotive Lightning di Tolmezzo. Il motivo della protesta è la decisione del gruppo di elargire 1.000 euro una tantum agli impiegati per fidelizzarlo, decisione che non è stata gradita ai sindacati poiché escluderebbe dal beneficio gli operai. Scioperi sono stati indetti anche in altri stabilimenti del gruppo. I temi del lavoro ancora. L'Italia, nonostante la crescita, resta l'ultimo posto in Europa per occupazione femminile. In una nota, la presidente del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Friuli Venezia Giulia Udine, Filomena Volio, alla vigilia della Festa Internazionale della Donna, ha affermato che mentre Friuli Venezia Giulia risponde con numeri abbondantemente al di sopra della media nazionale, il sistema italiano arranca però sulle tutele, condannando le donne, specialmente le autonome, a una vecchiaia con pensioni che sono la metà di quelle degli uomini. Nell'analisi del Movimento Donne Impresa di Confartigianato Friuli Venezia Giulia Udine, il dato più drammatico riguarda il futuro. Secondo i dati IMSS 2024, infatti, nelle gestioni autonome di artigiani e commercianti, l'importo medio mensile delle pensioni è di appena 772,9 euro per le donne contro i 1.352,7 euro degli uomini, una differenza di quasi 600 euro al mese che pesa come un macigno. Che fine fanno i reclami e gli elogi inoltrati alla sanità pubblica? Chi li esamina? E poi che cosa succede? Ne abbiamo parlato questa mattina nella nostra trasmissione televisiva Buongiorno Regione con il responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Esontina, Mirko Santi. Gli uffici di relazione con il pubblico rappresentano un punto di riferimento per il cittadino, forniscono informazioni e raccolgono anche reclami e spesso anche elogi o ringraziamenti. Nel 2025 Asugi ha registrato 1309 segnalazioni in generale, di cui il 64% comunque erano elogi, quindi elogi verso il personale di assistenza e servizi, il restante 36 sono reclami e segnalazioni che vengono attentamente analizzati, presi in carico nella giornata di arrivo e verificati. La maggior parte dei reclami riguarda il pronto soccorso e i distretti sanitari, cioè strutture con la maggior affluenza dei cittadini. Tanti si rivolgono all'URP anche per chiedere soluzioni sui tempi di attesa delle prestazioni specialistiche ambulatoriali. Nel 2025 sono state prese in carico ed evase 9.500 richieste. Il cittadino deve rivolgersi ai CUP aziendali, ai CUP aziendali che ricevono la richiesta, verificano la priorità della prestazione. Se in quel momento non è possibile prenotare immediatamente la prestazione, il paziente viene inserito in una lista e viene ricontattato non appena si trova al posto disponibile nei tempi previsti per legge. Quali sono le altre tipologie di reclami? Per quanto riguarda i presidi ospedalieri abbiamo la parte del comfort alberghiero, quindi i pasti, l'igiene, quindi il consiglio che posso dare è quello di allertare subito il personale di reparto e poi rivolgersi a noi per le verifiche che vengono prontamente effettuate. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il comune di Gorizia ha concluso l'iter del regolamento per l'introduzione dell'imposta di soggiorno che sarà discusso e votato nella seduta del Consiglio Comunale di lunedì 9 marzo e una volta approvato troverà applicazione dal mese di giugno. Sono state definite le fasce tariffarie per un massimo di 3 pernottamenti differenziate in base alla classificazione della struttura ricettiva. Sono state inoltre individuate, detto in una nota del Comune, le esenzioni applicabili, oggetto di valutazione e approfondimento nell'ambito del percorso di confronto, con alcuni adeguamenti emersi nel dialogo con le categorie maggiormente rappresentative e i consiglieri. I prezzi degli ski pass in regione cambiano da lunedì 9 marzo. Il ticket giornaliero passerà da 44 a 31 euro in tutti e 6 poli regionali dello sci, dove sono in funzione gli impianti di risalita che rimarranno aperti fino al 22 marzo, tranne che a Sella Nevea, dove si potrà sciare fino al 6 aprile, giorno di Pasquetta. Stasera sarà l'ultima di questa stagione in cui si potrà sciare in notturna a Tarvisio, nella parte bassa della pista di Prampero. E questa notizia ci ha introdotto alle previsioni del tempo, ma cominciamo con i dati. Il cielo è attualmente in prevalenza sereno sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Udine 14 gradi e 5 decimi, a Pordenone 13 gradi, a Tolmezzo 12, a Forni di Sopra e Tarvisio 10 gradi e 5 decimi, a Sappada 4 gradi, sul Monte Zoncolano 4 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 4 gradi, sulla costa Lignano 8 gradi e 5 decimi, a Grado 7. E per le previsioni meteo del fine settimana abbiamo intervistato l'esperto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, Federico Bonaldo. Continua questo periodo anticiclonico sulla nostra regione, l'anticiclone che ormai ci interessa da più di una settimana sta portando tempo stabile, quindi in montagna abbiamo una serie di belle giornate con cielo limpido, mentre l'anticiclone favorisce anche il ristagno di aria umida nei bassi strati e quindi la formazione di nebbie e foschie che si sono presentate a più riprese nel corso di questi giorni. E anche in questo fine settimana la situazione non cambierà, domani sarà una giornata con tempo stabile, cielo sereno. Di notte al mattino soffierà borino sul Carso Trieste e questo tenderà a rendere l'aria un po' più secca appunto sulle zone più orientali e quindi a favorire la formazione di nebbia foschia, che però potrebbero appunto presentarsi più verso ovest, verso il confine con il Veneto, di notte e lungo la costa anche di mattina. Sarà comunque una giornata mite invece in pianura, con temperature massime che potrebbero arrivare a sfiorare i 20 gradi. Lo zero termico in montagna sarà intorno ai 2300 metri di quota. Per quanto riguarda domenica non ci sono grosse novità, cielo sereno, potrebbero tornare nebbie un po' più consistenti su coste e bassa pianura, quota dello zero termico in calo a circa 2000 metri di quota, temperature massime di domenica in pianura tra 16 e 17 gradi, qualche grado in meno sulla costa tra 13 e 14 gradi. Si suppone tempo stabile anche per l'inizio della prossima settimana? Sì. Non sono previste piogge significative, ma anche per gran parte della prossima settimana, anche se l'anticiclone non sarà più così deciso, quindi comunque in particolare martedì sarà presente molta nuvolosità sulla regione, torneranno a fluire correnti un po' più umide anche in quota, quindi tornerà un po' di nuvolosità, ma non brutto tempo. L'Associazione Friulana Donatori Sangue di Udine, in una nota, ha espresso soddisfazione per la recente nomina di Mattia Lachina, coordinatore del Centro Regionale Sangue. Il sodalizio rappresenta una realtà di oltre 50.000 iscritti, a fronte di un contributo superiore alle 34.000 donazioni annue. Prima giornata per lo Student Day dell'Università di Udine, iniziativa di orientamento dell'Ateneo Friulano che comprende 64 presentazioni dei corsi di studio, la scoperta della scuola superiore, oltre a 30 stand, visite ai laboratori, attività sperimentali, test e simulazioni. In programma anche spiegazioni dei servizi e delle opportunità post laurea e incontri informativi per i genitori. Ad accogliere migliaia di studenti delle scuole superiori, il rettore Angelo Montanari, che fa capire l'importanza della scelta di continuare a studiare. Fare o non fare l'università fa la differenza. È illusorio, per esempio, sono in informatica, è illusorio immaginare di poter attingere alla conoscenza attraverso gli strumenti dell'intelligenza artificiale senza possedere le discipline. Quindi tu devi possedere la materia, devi conoscerla e a questo punto sei in grado di usare in modo proficuo questi strumenti, altrimenti sei in balia di questi strumenti e questo fa tutta la differenza. Quindi se uno vuole ambire a delle posizioni significative nella società, se vuole riuscire a padroneggiare la propria vita e non subirla, devi studiare. E non solo, devi metterti nell'ottica che studierai per tutta la vita, quindi devi fare l'università ma devi anche sapere che poi continuerai, direi fino alla pensione, ad aggiornarti, a prepararti, perché il mondo cambia rapidissimamente e l'università vuole esserci anche lì. Parliamo di formazione permanente, lifelong learning, questa è la nuova frontiera che stiamo aprendo. Lunedì inauguriamo il primo corso sulla resilienza di lifelong learning a Gemona, ma è solo il primo, prometto che a brevissimo ne avremo diversi altri. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla pallanuoto. Da oggi fino a domenica 8 marzo la piscina Scandone di Napoli ospiterà la Final Six di Coppa Italia Femminile. Stasera alle 20 le Orchette Labardate affronteranno il Cosenza Pallanuoto nei quarti di finale. Alcuni appuntamenti di oggi in regione: arriva questa sera al Cinema Ariston di Trieste il tour nazionale di Dom, casa, documentario di Massimiliano Battistella, in cinquina i nastri d'argento per il cinema del Reale. Si tratta di un viaggio nella memoria e nella storia di Mirela Hodo, che nel 1992, a soli 10 anni, durante l'assedio di Sarajevo, lasciò l'orfanotrofio Dom Bielav, dove aveva vissuto, per trovare rifugio in Italia, evacuata su un convoglio umanitario insieme ad altri 66 bambini. Oggi Mirela, quarantenne, vive a Rimini con il marito e 2 figli. Sarà presente anche lei questa sera al Cinema Ariston alle 20.45 assieme allo stesso regista Battistella. L'incontro informativo Insieme in Salute inaugurerà il ciclo Non solo 8 marzo, in cui medici e specialisti dialogheranno su prevenzione, diagnosi e nuove terapie per il tumore al seno. Appuntamento a Casarsa della Delizia, nella sala consigliere di Palazzo Burovic, alle 20.30. Ulderica da Pozzo, i giorni strappati, il tempo vuoto nel carcere, immagini dell'ex femminile di Via Spalato, il titolo della mostra fotografica che documenta il recupero e la ristrutturazione di spazi abbandonati da decenni. L'esposizione, prodotta dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, sarà inaugurata oggi a Udine al Museo Friulano della Fotografia del Castello, alle 18. L'allestimento sarà visitabile fino al 31 maggio. La sequenza sismica del 1976, caratteristiche fisiche e geologiche, tipologia di danni edifici e chiese, è l'evento in cui con rigore scientifico ma con linguaggio accessibile saranno approfondite le caratteristiche geologiche del territorio e le lezioni apprese dalla ricostruzione post-sisma. Interverranno il sismologo Gianni Bressane e l'ingegnere strutturista Alberto Moretti. Appuntamento a Cavazzo Carnico nella sala consiliare del municipio alle 20.30. Altri appuntamenti in regione: Luca Bianchini presenterà il suo libro Le ragazze di Tunisi a Trieste, la libreria Lovat, alle 18. Tra le pagine, le vicende del paese africano attraverso una saga familiare. Da oggi fino a domenica 8 marzo a Legnano Pineta è in programma il Puro Cioccolato Festival, manifestazione allestita nella Piazza del Sole con maestri cioccolatieri e artigiani da tutta Italia e dall'estero per offrire degustazioni, specialità regionali e creazioni innovative dedicate al cioccolato. Per la musica e gli spettacoli, la famiglia Formentelli si esibirà in musiche di Vivaldi e Corelli per violino, viola, violoncello e percussioni a Gorizia, al Centro Culturale Bratusch, alle 20:30. Per gli spettacoli, la lettura scenica del romanzo Una gioia feroce dello scrittore e giornalista francese Serge Chalandon chiuderà la rassegna anteprima dedica ad Azzano Decimo al Teatro Marcello Mascherini alle 20:45. L'attrice Giuliana De Sio sarà protagonista del dramma Il Gabbiano di Anton Chekhov a Udine al Teatro Nuovo alle 20:30. Orsola, racconto del complotto contro il patriarca Bertrand de Genie, liberamente ispirato al romanzo di Guerino Ermacora intitolato Terra di Uomini, sarà in scena a Udine nella Torre di Santa Maria alle 17. Le Bagnine, il titolo dello spettacolo che prosegue il percorso dedicato agli antichi mestieri femminili, si terrà a Grado l'auditorium Biagio Marin alle 20:45. Sarajevo Safari è il documentario sui cecchini di civili nell'assedio di Sarajevo che sarà proiettato a Pordenone al Circolo Zapata in via Ungaretti alle 20:30. Infine il recital Siamo Così, interpretato dal Free Voices Show Choir, diretto da Manuela Marussi, con la partecipazione dell'attrice Paola Aiello a Blessano presso la Sala Proloco alle 20:30. Uno spettacolo che si svolge in occasione della Giornata Internazionale della Donna come momento di omaggio, di riflessione per tutte le donne. Ingresso libero. E alle 12:55 minuti si chiude qui questo appuntamento con il giornale radio del Friuli Venezia Giulia, redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Bearz, che vi parla con la collaborazione tecnica di Manuel Montalto e di Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. A tutti l'augurio di un buon venerdì. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.